sorriso, è tempo di scoprire nuove idee con Simone Pizzi, il grande reset, un dialogo sincero per costruire insieme un futuro più vero. Unirsi per il cambiamento, lottare per un mondo migliore, ascoltarsi e confrontarsi con menti aperte e cuore. Runtime Radio, la voce del progresso, Simone Pizzi ti aspetta per un nuovo inizio. Unirsi per il cambiamento, lottare per un mondo migliore, migliore. Ascoltare, confrontarsi con menti aperte e cuore. Runtime Radio, voce del progresso, Simone Pizzi ti aspetta per un nuovo inizio. Il grande reset. Dai ragazzi, ben tornati qui su runtimeradio.it con me Simone Pizzi a parlare ovviamente di quello che sta succedendo nelle piazze italiane, cercando insomma di capire quello che sta succedendo nelle piazze italiane, perché devo dire che è un momento molto particolare, è un momento anche storico che va comunque fissato in qualche maniera, in un periodo soprattutto nel quale noi avevamo la percezione che abbattere un sistema potesse essere impossibile, probabilmente lo sarà ancora, ma la cosa che ci preoccupava di più è che non c'era una reazione né dalle forze che organizzano comunque il dissenso da un certo punto di vista, ma soprattutto dalle forze politiche che dovrebbero rappresentare questo dissenso in termini istituzionali. E qui, bisogna dirlo, è dove è caduto tutto dal punto di vista politico, perché se mai comunque ci fosse stata la possibilità di riaggregare un po' un discorso anche politico dal punto di vista dell'aggregazione della sinistra e comunque tutti quei movimenti sociali e popolari che tendono ad avere una posizione appunto di dissenso, ci rendiamo conto che ovviamente questa cosa è... ha fallito, cioè sta fallendo in maniera miserabile, lo sapevamo già da tempo. Questa azione ovviamente di quelle che sono le istituzioni anche politiche che dovrebbero sostenere il dissenso in realtà dimostrano quanto questo, non solo questo dissenso non esiste, ma quanto quel tipo di politica di sinistra istituzionalizzata fa parte di un sistema oramai del quale non ne vuole fare a meno e forse nel quale è già incastonata. E noi abbiamo fatto tantissime volte il discorso di quanto da Renzi in poi la sinistra sia completamente sparita, no? dal panorama, al di là del fatto che sicuramente gli organi di informazione non sostengono, no? Quello che è la situazione, magari i pensieri o magari le proteste che possono fare i movimenti di sinistra rispetto a quello che è la politica iperistituzionalizzata su un governo che ormai ha veramente occupato in maniera volgare quasi, insomma, tutto quello che è il sistema informativo del paese. Ma comunque, se sei ancora in grado, se hai ancora una forza politica da un certo punto di vista, è chiaro che comunque devi anche abbattere, devi fare la controinformazione. Questo paese è stato completamente abbandonato da questo punto di vista e quindi noi ci siamo abituati a vedere le piazze vuote o manifestazioni tristi, a volte manifestazioni tristi con quattro stronzi che stavano là perché magari pensavano che dando l'esempio comunque qualcuno poi piano piano si sarebbe aggregato. Quello che sta succedendo oggi invece è qualcosa di importante dal punto di vista dell'impatto storico e politico in una fase delicata della democrazia mondiale. Quindi non stiamo parlando più del nostro paese, della Meloni o della Bulgaria, dell'Ungheria o della Polonia. Stiamo parlando di un problema globale, dove ovviamente l'istituzione democratica in questo momento è un peso, è un fardello, per tutti quelli che sono i sistemi di controllo della politica, ossia tutta l'antipolitica, no? Tutto quel discorso di finanza che poi in realtà è l'alta finanza, gli alti interessi, l'alta industria che oggi ha completamente spodestato quello che è comunque il compito che spettava ai politici. Quindi è chiaro che questa situazione è abbastanza drammatica, e quello che stiamo assistendo questa mattina, quello che stiamo assistendo oggi, era un qualcosa atteso da molto tempo. Anche l'indicazione da parte dei sindacati, comunque delle quelle forze più grosse, istituzionali, che dovevano dare un segnale prima o poi, e c'era bisogno che qualcuno desse il segnale, e quindi è stato indetto uno sciopero generale, al quale stanno partecipando tante categorie, questo bisogna dirlo, e da quello che sto vedendo adesso, noi abbiamo Michela inviata lì, insomma, però sono 2 ore che stanno a cercare parcheggio, quindi diciamo che se la Palestina mettesse in mano a Michela e Veronica e il padre di Veronica, diciamo, il proprio destino, sarebbero spacciati, insomma, questo era un po' da prevedere, e loro si sono organizzati male da questo punto di vista, andare con la macchina a Castro Pretorio per andare alla manifestazione, insomma, era un po' una scemenza. Più c'è una manifestazione che mi pare di aver capito che parte da Piazza dei 500, quindi un po' strano, probabilmente hanno avuto anche delle difficoltà a prendere gli spazi per manifestare. Però appunto quello che stavo dicendo è che in generale la percezione da quello che arriva è che l'Italia è scesa in piazza in una maniera massiccia, ed è stato bello il racconto anche questa mattina, vedere pure i ragazzi delle scuole di Monterotondo che si stavano organizzando in vari punti d'aggregazione, con i genitori anche che hanno partecipato e volevano partecipare a partire a questa manifestazione, il che significa che a volte, e questo è stato poi il grande messaggio della Global Flotilla, che praticamente ha comunque detto: ragazzi, se non lo facciamo noi, non lo fa nessuno. In questo momento, qualsiasi sia il motivo, sia economico, finanziario, politico, religioso, di schieramento politico, qualsiasi sia la ragione, in questo momento nessuno ha il coraggio di prendere una posizione nei confronti di Israele in quanto nazione, governo, non in quanto ebrei, perché ribadiamo questa cosa, perché ovviamente per 70 anni 80 anni ci hanno fatto i coglioni grossi come le bistecche, praticamente dicendo che no, se tu parli male sei un antisemita, no? Quindi c'è sta cosa, e io l'ho detto già nella trasmissione: se criticare Israele, il governo di Israele, la politica criminale di questo governo in questo momento mi fa di me un antisemita, e allora va bene, sono un antisemita, fate quello che cazzo vi pare, non me ne può fregare di meno, l'importante è che io continui a esprimere il mio dissenso profondo e feroce. E adesso cerchiamo un po' di seguire quello che sta succedendo e anche capire se Michele appunto riuscirà poi a mandarci dei contributi in qualche maniera, che cerchiamo di capire, insomma, in che modo possiamo poi alla fine mandare questi contributi. Ma da quello che ho capito 3 minuti fa stavano ancora a cercare parcheggio, quindi insomma è stata una spedizione un po' Brancaleone quella di Runtime Radio, e come al solito noi ci dobbiamo far riconoscere da questo punto di vista. Però poi vediamo che cosa succede, cerchiamo poi di stare dietro a questo evento e cercare di capire. Io sto qui con voi per un po' di tempo, non tantissimo. Ovviamente cercherò, adesso vado a raccogliere un po' di informazioni che vedo, partirei dal sito dell'ANSA perché vorrei fare subito notare delle cose, e poi insomma vedo un attimo come stanno i nostri inviati, come stanno messi, per cercare di capire che cosa sta succedendo. Bene, allora è tutto a posto, ragazzi, state tranquilli che è tutto ok, ma devo capire questo nuovo software che sto utilizzando come funziona, ecco, capito? Quindi arrivo, ve lo dico, tutto a posto, eccolo, ho capito tutto, sì. Sei su Runtime Radio, la talk radio geek. Allora, ciao a tutti ascoltatori di Runtime Radio. Noi stiamo partecipando con il cuore a questa manifestazione, anche con le bestemmie, perché ovviamente i parcheggi non ci stanno e ovviamente, cioè, avevamo pensato di metterci un po' lontano dalla stazione, ma proprio la situazione è abbastanza estrema. Ma noi ce la faremo, in un modo o nell'altro ce la faremo. Magari se ci mangiamo un panino è meglio, abbiamo pure fame, però ce la faremo, ce la faremo. Intanto dalla manifestazione ci dicono che c'è tantissima gente, questa è la cosa più importante, e tanti stanno affluendo. Bene, bene, allora, primi contributi dell'armata Brancaleone, che ci porta, insomma, qualche piccolo contributo. Sì, sì, è vero, arrivano immagini importanti, non soltanto da Roma, chiaramente, questo mi fa piacere. Alcune cose le devo vedere sul sito della Repubblica, per quanto questa cosa mi dia fastidio, però d'altronde, ragazzi, non è facile oggi. Oggi è una lotta contro qualsiasi cosa, soprattutto contro il sistema informativo, contro la politica, contro il silenzio, e poi queste cose dobbiamo farle anche per le altre guerre. Mo adesso cerchiamo di capire un attimo questo, perché chiaramente è un problema geopolitico globale, no? Quindi qui oggi stai a combattere proprio contro i mostri, quelli veri, insomma, in generale, per un problema per la quale noi manifestiamo e lottiamo da tantissimi anni. Io in particolare le manifestazioni per la Palestina ne ho fatte tante, qualche volta ci abbiamo preso pure qualche zaccagnata, però d'altronde faceva parte di questo. No, volevo far notare che sul sito di ANSA è interessante, perché le prime voci importanti sono quelle di Angelina Jolie, che non riconosce questo paese, sono tempi pesanti. E la seconda voce, ovviamente, è che al funerale di Kirk ci stavano 200.000 persone ed è stato uno show, quindi le foto. Poi un altro riferimento alla vedova Erika, ovviamente sempre del ex miss, ma ci tenevano a dire, che raccoglie l'eredità di Kirk, insomma, sono cose veramente importanti. Vabbè, insomma, alla fine comunque tutto. Quanti paesi riconoscono la Palestina? Questa è una cosa, ecco, forse già un pochino ne parlano. Poi, per arrivare alle informazioni sulla manifestazione, bisogna scendere un po'. E ci sono poi le informazioni in tempo reale, dalle quali possiamo prendere alcune informazioni. Intanto, vabbè, Repubblica è molto più precisa su questo, però insomma è importante sapere che anche i laici del Vaticano hanno aderito alla manifestazione generale, ragazzi. Qui, insomma, Livorno, insomma, grande partecipazione, quindi se stanno scendendo in, vabbè, ma da Livorno diciamo che un po' te lo aspetti, no, da un certo punto di vista. La rete degli studenti in piazza in tutta Italia contro il genocidio, questo anche, no, perché poi, ecco, vi raccontavo stamattina del fatto che molti studenti sono partiti da Monterotondo dandosi dei punti di aggregazione davanti alle scuole, e alcuni con i megafoni, ovviamente, tanto incitando la gente alla partecipazione, e molti anche con i genitori che li hanno accompagnati, non tanto per accompagnarli, ma perché magari c'è una partecipazione. Questo vi dice una cosa, ragazzi, cioè a me mi dice una cosa, poi dopo ognuno fa quello che gli pare e pensa quello che gli pare. Noi diciamo sempre, anche nei nostri programmi, che alla fine c'è questo decadimento, no? Questa cosa che la gente non lotta. C'è stato un episodio stamattina brutto proprio qua a Monterotondo, perché alla fine c'erano questi ragazzi che stavano aggregando, c'era una notizia che apriva il negozio, l'outlet, se volete sapere, l'outlet che sta qua vicino dalle parti di Runtime Radio, quindi così lo sapete anche di che cosa stiamo parlando. Queste sono cose brutte, non si dovrebbero fare, però vaffanculo a un certo punto. E che ha detto: ma guarda sti coglioni, si inventano tutti, ma vanno a scuola, no? Cioè, vabbè, già che sei un negoziante sei sospetto e va bene, no? Diciamo questo. Però ecco, noi diciamo sempre che alla fine non c'è più la partecipazione, che non c'è più l'impegno, non c'è più. Ma in realtà io sto seguendo tantissimi ragazzi anche su Instagram, molti giovani che alla fine sostengono che chi ha votato questo governo non fa parte della loro generazione. Il problema è che adesso a loro che non vogliono votare questo governo, non vogliono votare i fascisti, manca un po' l'alternativa, e questa è la cosa più importante. Però, dicevo, noi diciamo sempre che non c'è aggregazione, non c'è spirito, e alla fine secondo me invece questo segnale di oggi ci dice: cazzo, finalmente qualcuno l'ha fatto, qualcuno ci ha portato in piazza, vaffanculo. Allora, ritorniamo. Tanto Deborah giustamente dice: guarda che la notizia è la seconda in home page, sì, ha ragione, ma quando mi stavo preparando io tutto il materiale era la quarta, se non addirittura la quinta, insomma, quindi poi l'hanno tirata su perché evidentemente magari poi si indicizza. Global Movement for Gaza dice: ogni no è importante. Arrivano messaggi ovviamente dalla Global Flottiglia, che insomma sostiene chiaramente, da fargli auguri a questa grande mobilitazione generale. A Torino gli studenti bloccano l'ingresso del campus universitario. Ragazzi, c'è una foto impressionante, cioè veramente so. Io, guarda, vi diranno, come dicevo prima a Deborah nella chat, vi diranno dei dati così ad gazzum, secondo me, pure sulla partecipazione, ma secondo me fanno molto più, molto molto molto più riferimento a quelle che sono le foto che iniziano già a circolare, sono sui giornali, dalle foto, gli interventi live e via dicendo, perché comunque fanno proprio rendere conto che c'è un'aggregazione. Poi oggi forse non ci saranno mai più quelle manifestazioni dove a Roma si scendeva in 1 milione, 2 milioni di persone. So se vi ricordate il primo governo Berlusconi, forse l'ultima grande manifestazione della storia repubblicana, però voi dovete considerare che quello che sta succedendo adesso sta succedendo in tutta Italia, e questa è un po' la cosa che va tenuta in considerazione. Infatti anche nella notizia, e poi la riscontro anche io qui sul sito della Repubblica, la notizia che portava Deborah diceva comunque poi alla fine molti treni cancellati, 20.000 in piazza, ma magari ancora saranno 20.000, poi vediamo quanto diventeranno, ma poi questo sarebbe il problema minore. Però ecco, pure qui su Repubblica: Roma, alcuni treni cancellati e ritardi fino a 80 minuti. Quindi insomma, poi alla fine questo è, capisco chi bestemmierà per tutto questo, però questo è lo sciopero. Lo sciopero è questo, lo sciopero è costruire un disagio all'interno di un sistema dove tu comunque hai questo diritto per poter far valere comunque un'opinione, una posizione, una parola. E questo è... Allora, anche a Roma, perché intanto nel frattempo leggo, anche a Roma gli studenti bloccano l'ingresso alla città universitaria, quindi vabbè, poi ci saranno manganellate, ragazzi, ve lo dico subito. Perché poi dopo una cosa è fare la manifestazione, un po' poi è per creare dei picchetti, dei presidi ovviamente di fronte agli ingressi, e lì ovviamente dai il pretesto, no, ad intervenire, ma è giusto che sia così, perché comunque il segnale è anche questo. Oggi c'è sciopero generale, oggi è sciopero generale, non dovete fare un cazzo, dovete stare lì e dovete stare a sentire quello che ci abbiamo dato in noi, no? Poi è un po' anche questo il messaggio che dovrebbe rappresentare. E intanto Michela ci dice che hanno parcheggiato, che vergogna, comunque posso dire che è vergogna. Scusate, io faccio così, ma sto facendo tutto in tempo reale, perché seguo Michela, seguo quello che dicono, poi Michela mi manda degli audio, devo capire poi se gli audio sono diretti, non c'ho un regista che sta lì e me li ascolta, devo capire se l'audio lo posso trasmettere oppure no, insomma, quindi adesso vediamo, insomma, nel frattempo continuo a scorrere un po' le notizie belle, le immagini, ragazzi, che sto vedendo. Allora, il primo corteo di Roma è partito proprio dalla Sapienza, ok, quindi non soltanto la piazza dei 500 che si diceva, intanto vabbè, qui sta a passare il camion della Monnezza. Ragazzi, scusate, sto con le finestre aperte perché fa veramente, oggi è veramente impressionante quello che sta succedendo in questo momento. Povera Michela, che povera Michela, cioè partono... intanto salutiamo Marco Cipolla pure, salutiamo Deborah, vabbè, l'ho già salutata. Il diritto allo sciopero è sacrosanto. Sì, sì, ma capito che noi stiamo lottando anche per questo, no? Cioè, nel senso che oggi è Gaza che è un problema sicuramente serio, ma secondo me questo è un input che tu dai alla gente che è tramortita dal sonno per colpa di Domenica Inn, che sappiamo ieri, buona domenica, insomma, la trasmissione quella della Venier, che ieri c'aveva la Meloni in trasmissione, ragazzi, che vergogna, ragazzi, che vergogna, che paese, guarda, neanche negli anni 50 al post-fascismo eravamo così, insomma. E Genova bloccati due varchi portuali, ragazzi, quelli di Genova, allora gli operatori del porto di Genova sono i nostri eroi, possiamo dire che sono un po' i nostri eroi, perché sono quelli che un po' hanno dato inizio a tutto, sono quelli che hanno bloccato veramente migliaia di armi verso Israele, sono quelli che hanno minacciato da un certo punto di vista che se soltanto una persona della Global Flotilla sarebbe stata toccata, bloccavano, sbragavano tutto, sbragavano proprio tutto il porto. Poi il porto di Genova, ragazzi, è un porto strategico abbastanza importante. Non ci sono foto, però migliaia di persone in piazza a Cagliari, questo anche è un momento che va segnalato, nel mentre... Sapete che faccio io, dato che c'ho questo messaggio di Michela che vorrei ascoltare, sono veramente molto curioso. Vi metto una canzone, così tanto vi faccio compagnia così oggi. Tanto la musica dovrebbe essere caruccia, dai, tutto sommato, che dite? Ecco, tranne questa, perché sicuramente sono i nostri vecchi jingle questi. Allora, ma se finisce così una canzone, scusate, beh, in realtà se guardo il programma di regia me ne rendo conto, ma di come ne stavo guardando altro, giustamente non me ne sono potuto rendere conto, però Piazza dei 500 a Roma si sta riempiendo, ragazzi, però c'è un'immagine che non è che ci fa molto capire, insomma, la cosa è un po' strettina l'immagine, tra l'altro, vabbè, questo noi non potevamo non aspettarcelo, il comune di Bologna espone la bandiera della Palestina, ragazzi... Oh, prima o poi qualcuno se renderà conto che non dico la metà di noi, ma tanti di noi. Voi, io ho visto, cioè, a Propaganda hanno fatto dell'intervista che Salvini si è fatto fare dalla televisione israeliana. Cioè, voi non potete parlare a titolo nostro. Cioè, voi non potete parlare a titolo di tutti dicendo noi siamo con voi, siamo dalla parte giusta. Ma la parte giusta di che? Ma poi Salvini, raga, ma ce lo ricorderemo un giorno qualcuno, se magari se dovesse ripristinare un sistema culturale in questo paese, ci sarà la gente che studierà che Salvini è stato un ministro della Repubblica, che ha governato sto paese, ragazzi, gente che ci riderà, io non voglio dire niente. Comunque anche il comune di Roma ha esposto la bandiera della Palestina facendo incazzare ovviamente la comunità ebraica, perché la comunità ebraica non è che si pone il problema del fatto che non è contro la comunità ebraica, cioè è comunque un problema di uno Stato che esisteva prima di voi. Questo è un discorso che loro fanno finta di non tenere in considerazione. Migliaia in corteo a Fiorentino. Non so dove sia, Fiorentino. Paralizzato il casello della 1. Figo, bravi. Oggi gente bestemmierà, ragazzi. USB nelle scuole, adesione sopra le aspettative. Questo è una cosa che mi sono reso conto anch'io. Questa è veramente una cosa molto molto molto positiva. Mi fa veramente tanto piacere il fatto di vedere, ma io appunto lo sto vedendo un po' nei social, ragazzi, scorrendo un po' anche ragazzi giovani, neodiplomati, magari ragazzi che si approcciano all'università, vedo che fanno dei discorsi che a volte mi emoziono, perché mi sembra di essere tornati indietro dei 40 anni, quando la gente aveva la proprietà del linguaggio. E devo dire la verità, ragazzi, c'è un dissenso disorganizzato, forse apparentemente silenzioso, però in realtà c'è. E questo fatto che gli studenti in qualche maniera, o qualcosa all'interno delle scuole sta rientrando, qualche organizzazione, onlus, associazioni per la protezione dei diritti, no? Magari non una strutture politicizzate, perché oggi comunque quella politica forse i ragazzi non la riconoscono manco più, e da una parte lo posso anche capire, no? Roma migliaia in piazza, vabbè, però mettete foto Repubblica, so che è vero del culo a voi di Repubblica perché siete dei sionisti, però insomma, allora, in migliaia a Trento per Gaza, ragazzi, pure Trento, cioè vi rendete conto, città che tu non senti mai nel contesto della grande mobilitazione generale, e invece questa c'è stata un'organizzazione dietro, vogliamo dire che c'è stata un'organizzazione e una partecipazione, perché poi non è come le manifestazioni che faceva Berlusconi, che andavano a prendere i vecchi, pagano il viaggio, pagano il pranzo, cioè spendevano migliaia di euro per riempire le piazze, no, con tutti sti vecchi, e tu poi li andavi a intervistare e dicevi com'è lei qua, ah, non so, mi avevo pagato tutto, che cazzo mi frega. Allora, Roma, lo studente il corteo degli studenti è arrivato in Piazza dei 500, quindi praticamente partiva da Piazza dei 500, perché quelli che partivano dall'Università La Sapienza sono arrivati a Piazza dei 500, che è una cosa, cioè oggettivamente è un posto strano per iniziare la manifestazione. Storicamente di solito si iniziava al Colosseo, si veniva a San Giovanni, o comunque si passava per il centro e si arrivava a Piazza del Popolo, insomma di solito erano quelle le destinazioni. Migliaia in corteo anche a Bologna, e qui già le foto sono un po' più eloquenti, ecco, da un certo punto di vista, che mi fa veramente piacere. Vabbè, ma da Bologna, nonostante questo barcollare della regione Emilia-Romagna, di Bologna, ragazzi, ci sono certe cose che sono inside nel DNA culturale di una realtà. Bari, corteo per Gaza davanti al consolato israeliano. Questi vanno le botte, questi sono andati lì a Bari. Io mi immagino, ragazzi, mi piacerebbe poi vedere l'immagine, tutto quanto. No, mi piacerebbe, nel senso che sono contento se piano le botte, no? Però, cioè, voglio dire, tu sei proprio un cazzo di provocatore, cioè sei andato lì al corteo, capito? Cioè, per piale botte, dai, cioè, alla fine, diciamo, c'è un po' tutte le cose come stanno. E vabbè, soltanto sto continuando a seguire un po' la situazione. Allora, un altro piccolo brano e poi ritorno, così vedo un attimo se intanto ci arrivano anche i contributi dai nostri inviati sul campo. Tra l'altro, scusate, ragazzi. Grande Reset, il talk show di Simone Pizzi, che esorta al nuovo inizio ogni venerdì mattina alle ore 7, sempre e solo su runtimeradio.it. Ogni venerdì mattina svegliarsi con un sorriso, è tempo di scoprire nuove idee con Simone Pizzi. No, vabbè, ragazzi, c'ha ragione lui, ho sbagliato io. Perché come funziona un programma di automazione radiofonica, di regia radiofonica? Ci sono dei gruppi di contenuti sonori, no? Quindi c'è il gruppo delle promo, il gruppo dei jingle, il gruppo delle station ID, il gruppo ovviamente della musica, che è la parte più importante, poi ci sono vari assets e via dicendo. Quindi se poi si crea una schedulizzazione, prima automatizzata e poi manuale, che contiene tutti questi elementi sulla base di uno script, di una programmazione che tu fai, cioè nel senso due canzoni, un jingle, due canzoni, un promo, tre canzoni, un jingle e una promo, cioè tu fai comunque tutto un pattern e lui poi ovviamente lo mischia, anche se lo fa un po' anche in modo, sì, comunque lo fa abbastanza in maniera coerente, insomma, tutto sommato. E che succede? Succede che questo, sto utilizzando un software nuovo che è migliore di quello che utilizzavo prima, solo un po' mi devo abituare. E in effetti c'era il tag verde, che è quello che c'era il promo, e non c'era e non c'era la base musicale. Invece io pensavo, siccome che era il promo poi del Grand Reset, perché poi quelle sono cose che vanno random, insomma, dovrei programmare dicendo se ci sono io in onda non devi fare il promo di quello che sto facendo io, però ragazzi, non è veramente un lavoro questo, insomma, quindi potete anche capire. E quindi quando ho sentito la musica del Grand Reset ho detto no, è partita la sigla, che cazzo sta a fare, sto sbagliando tutto, sto a fare un casino. Invece no, in realtà era tutto giusto e tutto fatto bene. Torniamo un attimo alla questione di quello che stavamo vedendo. Tanto mi scuso ragazzi, però vabbè, datemi tempo un po' di prendere la dimestichezza. Sciopero a Palermo, gli organizzatori dicono siamo in 20.000. 20.000 a Palermo ragazzi è tanta roba. Ma c'è una cosa che voglio far notare, che ho dimenticato di dire fino adesso, e che per i meno politicizzati probabilmente fregherà un poco, ma io sapete che sono politicizzato, io sono profondamente ideologizzato, io per me io ho una mia visione, che questo non significa che mi rende un fanatico chiaramente, però insomma mi fa piacere vedere che tutto questo ambaradam di centinaia di migliaia di persone in piazza in tutta Italia è comunque stato organizzato dall'Unione Sindacali di base. Quindi stiamo parlando di qualcuno che dice, oh, raga, magari non siete d'accordo con tutto quello che diciamo, ma ecco qua, c'è un po' di sinistra ancora in questo paese che vuole... bloccata la stazione Termini, niente, raga. Ma poi, cioè, tu fai partire una manifestazione a Piazza dei 500, ma io dico, che cazzo... Ma secondo me l'hanno fatta ovviamente apposta, perché... Ovviamente è un modo un po' per limitare la manifestazione, per dal pretesto poi alle guardie di menare... 4.000 in corteo a Pisa. Vabbè, Pisa è una cittadina piccolina, e quindi vediamo, aggiorniamo la pagina così per vedere se ci sono Roma, gli organizzatori siamo in 100.000, vedete, non so più 20.000, però da Roma arrivano sempre delle foto un po' circoscritte senza avere una visione d'insieme, quindi insomma siamo un po' bloccato il varco al porto di Trieste, grande, non sapevo manco che c'era il porto a Trieste. Ah sì, certo che c'è il porto, sta sul golfo, sulla baia, bellissima Trieste ragazzi, se vi capita andate, perché è veramente una città meravigliosa. Roma, gli studenti, università deserta, messaggio per il governo, giusto, vedete, avete svuotato l'università, questo è uno sciopero generale che ci riporta agli anni 70, 80 e 90 anche un pochetto, perché ricordiamo che ancora esistevano movimenti di protesta allora. Belle le foto, comunque c'è partecipazione e c'è la gioia, secondo me, nel dramma. Io capisco che questa cosa un po' stride, no? Cioè tu stai lì per protestare contro un genocidio, contro decine e decine di migliaia di persone, dei bambini che sono stati sterminati da un governo criminale nazista, perché ricordiamocelo, tu oggi se fai vedere una svastica all'ebreo, quello si emoziona, non ce l'ha più la cosa che oddio questi sono i nostri nemici, loro si emozionano perché sono uguali, sono la stessa identica cosa. E quindi capisco che tu stai per protestare lì, però voi dovete anche capire che questo evento rappresenta una riesplosione di qualcosa che era mancato per tanto tempo. Quindi la gente è scesa in piazza in qualche maniera non dico che sono felici, però comunque è nel dramma la festa del ritorno alla resistenza in qualche maniera. Questo è veramente veramente bello, io lo trovo così, poi magari dico anche una stronzata ragazzi. Gaza, corteo, Firenze, Pisa, Livorno, cioè proprio tipo adesso si uniscono le immagini invece dei Menasse, soprattutto tra Pisani e Livornesi, che si vanno tantissimo bene, alla faccia insomma della resistenza e dell'unione. 20.000 persone in piazza, ritorna sempre sta cosa che poi quelli dicono sono 100.000, quelli sono no, siamo 40. Vabbè, insomma, diciamo che questa è un po' la situazione. Non c'è un grandi, non so, grandissimi aggiornamenti, devo dire la verità adesso. Queste sono l'ultima, appunto, delle 12.46, che sono, mazza, sono quasi l'una. Mazza Dio, un po' mi abbandonate perché dovete andare a mangiare. Io lo capisco, lo capisco, insomma. Oddio, l'ictus del mixer. No, non è. Devo capire, prendere dimestichezza un po' con determinate cose. Si contano morti e feriti, per ora no. Per ora pare che sia tutto abbastanza sotto controllo. Il fatto che non arrivano più messaggi dai nostri inviati potrebbe essere preoccupante. Scherziamoci sopra, perché veramente. La situazione è un po' quella che è, insomma, ecco ragazzi. Vabbè, allora, in attesa che Michela ci mandi qualche contributo, che eventualmente poi non ci dovesse mandare, le manderò in rotazione sulla Rai, sì, sulla Rai, sulla radio, così, ad gazzum, cioè nel senso, magari li mando a rotazione durante la giornata, mando ogni tanto i piccoli contributi di Michela, perché in questo momento non posso... io ho già mangiato, bravo, hai fatto bene. Io no, invece, infatti, durante la canzone vado a dare due mozziche a qualcosa e poi ritorno. Così mi riprendo e vedo se continuare ovviamente questa cosa. Io posso pure continuare tranquillamente a stare qui, non è che c'ho nessunissimo problema, insomma, quindi. Va bene, brano, ritorno. Un giorno lontano, quando ero innocente e tutta candore e virtù, se un tale veniva a farmi la corte, gli dà. Allora non ci fu più, no. Ebbene, allora, tanto era Milva, ragazzi. Cioè, magari la canzone non vi è piaciuta tanto, però quasi. Non era un caso, insomma, la rossa Milva, ricordate, grande. Allora, l'Unione Sindacale di Base dichiara: le scuole hanno aderito fino al 70%. Guardate, se fosse vero anche la metà, c'è un futuro per questo paese. Se fosse vero anche soltanto la metà, c'è un futuro per questo paese. È bella la foto sotto con tutti questi ragazzi ignudi, praticamente aggrappati sui muretti con tutta la gente che passa il corteo. Vabbè, ragazzi, io lo capisco, l'ho fatte pure le manifestazioni, erano anche un momento di particolare vivacità, insomma, d'altronde quando c'hai 16-17 anni c'hai l'ormone incasinato, quindi sì, è importante stare lì per tutte quante le ragioni, anzi ti emozioni ancora di più, e quindi poi vabbè, dai, champagne, potrei mettere la canzone che... quella che abbiamo fatto io, abbiamo fatto Falce e Macello, insomma, forse magari dopo alla fine la metto pure, sti cazzi, che me frega. E, Milano, bruciata la bandiera USA. Beh, queste cose non si fanno, ragazzi, io purtroppo non devo approvare, non devo approvare questa cosa, perché chiaramente, insomma, abbiamo la nostra posizione, bisogna essere corretti, non bisogna essere facinorosi o creare danni, anche perché poi, ecco, al di là di tutto, anche sti cazzi, la bandiera USA, però... diciamo, gli dai sempre il pretesto ecco, guardi, guardi questi stronzi. Allora, adesso arrivano le notizie dei bruciamenti. Napoli, manifestazione bruciata, la foto di Meloni e Netanyahu. Ragazzi, che volete? Voi vi scandalizzate, cara Repubblica, vi scandalizzate? Io direi di no, insomma. Il problema è che questa notizia ha sostituito la notizia della bandiera dell'USA, quindi non so perché. Sono cose strane che succedono, insomma. Notizie alle 11, alle 12.21. Vabbè, Repubblica, però aggiorna un po' più frequentemente, insomma, che qua. Ma voi cosa ne pensate, ragazzi? Cosa sta succedendo, tutto sommato? Cioè, al di là della positività, insomma, della cosa. Poi Mister Zero, perché stai ascoltando? Tu sei, vai, scendi in piazza pure tu, vai là, Free Palestine, Free Palestine, mi raccomando, Certo, stavamo riflettendo l'altro giorno con Sbano, no? Che in un periodo come questo, quando tu dici una cosa, magari una manifestazione, vi ricordate i tempi di Berlusconi, che prendevano la gente alla Digos, li prendeva e li portava dentro, che ne so, dentro un negozio, li chiudevano là dentro e non si sa che cazzo succedeva e non si sapeva a che fine facevano queste persone. E tra l'altro l'altro giorno hanno fatto vedere delle donne che hanno fatto due tipe che hanno fatto praticamente vedere il fatto che c'era il modo con quelli da Digos che li seguivano, che tu dici, vabbè, la parola non è loro. No, poi loro con tanto cellulare sono andati là e hanno detto, cioè, ma perché ci state seguendo? Cioè, noi non stiamo facendo niente di male, cioè, questo lo dite voi, cioè, noi dobbiamo verificare, cioè, questo è semplicemente perché avevano esposto una bandiera della Palestina, cioè, questo è un po' il clima, no? Quindi alla fine, se il clima è questo, è chiaro che poi alla fine la gente, cioè, perché poi in realtà è quello che sta succedendo negli Stati Uniti, no? Poi ne parleremo di questa cosa degli Stati Uniti, ragazzi, perché il crollo della democrazia negli USA non solo sarà a cascata un pericolo globale, ma sta succedendo veramente qualcosa di grave, perché oltre ad essere caduta la democrazia è caduto anche il sistema della società civile, dove ovviamente adesso politici, giudici hanno paura, si ritirano dalla vita politica, perché vedete che cazzo sta succedendo, no? Cioè, nel senso, mo, al di là di tutto, no? Questo è un po' il dissenso. Allora, l'altra sera a cena ne parlavamo con Walter Sbano, dicevano, ma tu pensi, al di là dell'importanza che ci abbiamo noi come radio, tu pensi che comunque non ci siano registrazioni, cose, comunque anche algoritmi da Digos che magari comunque non sentono quello che diciamo, oppure che comunque non registrano tutta sta roba? Io direi che bisognerebbe tenerla in considerazione sta cosa, perché attenzione che è arrivato un contributo da Michele, adesso lo mandiamo. Dai, cioè, comunque in considerazione, cioè, magari non ti ascoltano direttamente, cioè, nel senso che stanno lì che te tengono sotto controllo, però c'è sempre un sistema magari di controllo che io di cui mi preoccuperei, insomma, sempre. Sentiamo che dice Michela. Ok, ci stiamo avvicinando al posto e siamo proprio dietro l'angolo, abbiamo fatto pausa pipì del tragitto per arrivare, insomma, ci sono voluti mezz'ora e vi aggiornerò. Vabbè, Michele, ma è finita la manifestazione, Michele, voglio dire, giusto per permettere, insomma, di aggiornarti alla questione, ma insomma la manifestazione è finita. Buongiorno anche a Vincent Valentine, se vado a manifestare sono capaci che mi prendono se prendono un palestinese, perché loro, sai, che non fanno distinzione, no? Se sei un po', diciamo, leggermente più scuro dell'indoeuropeo, in questo momento sei palestinese, in altro caso saresti stato qualcos'altro, insomma, vabbè, dai, comunque vai tranquillo, scherzavo, non è che l'importante è il gabbio, ti portiamo l'arance, Mister Zero. Venivamo tutti giù in Sicilia e portavamo l'arancia, no, poi lì l'arancia non c'eravamo manco bisogno di portarle, insomma, le trovavamo lì, immagino, arance e limoni, insomma. Quindi vabbè, è un po' drammatica sta cronaca dell'armata Brancaloni by Runtime, che dice, no, siamo quasi arrivati, finita la manifestazione. Vabbè, comunque fa veramente ridere. È arrivata pure la foto, insomma, di Napoli che bruciano, la foto di Netanyahu, ma in realtà io non la vedo sta foto, comunque vabbè, c'è una foto generica della manifestazione di Napoli e gente che il titolista dice che hanno bruciato. Questa cosa del 70% nelle scuole è veramente importante. In questo momento non ci sono grossi aggiornamenti, vi devo dire la verità, ragazzi, quindi se non avete cose da dire, considerando che Michela ha fatto pure la pausa pipì, ci ha tenuto, insomma, a darci questo aggiornamento importantissimo, io metterei un altro po' di musica, così mi organizzo un attimo le informazioni, cerco di capire se ci sono articoli, notizie, magari possiamo dare una sbirciata e poi decidiamo, insomma, un po' il da farsi su questo episodio speciale, che sono qui da solo tra un mozzico, un panino, un pezzo di pizza avanzata ieri sera, e vi dico la mia. My love, she speaks like silence, without ideals or violence. She doesn't have the broken wing. Stai ascoltando Runtime Radio, la radio geek. La radio geek, stai ascoltando. Insomma, vabbè, stavo mandando un messaggio a Michele dicendo gli inviati del futuro, collegamenti a manifestazione interrotta, manifestazione conclusa. Comunque, volevo dire che ci sono altri piccoli aggiornamenti qua ad Anza, ma veramente poca roba in questo momento. Lo sciopero generale, vabbè, ovviamente dice, vabbè, trasporti a rischio. Milano al centro bruciata la bandiera USA, l'abbiamo detto. Torino in 10.000 in piazza, binari bloccati, blitz degli ambientalisti, cioè, così. Sì, ambientalisti, vedi che cagano il cazzo, che si fermano davanti alle macchine e si sdraiano, insomma, vabbè. Oggi è la festa di tutti, ragazzi, come ho detto, è un motivo importante, ma il significato è il ritorno al dissenso, che è una cosa importante, ragazzi. Uno magari non ci fa veramente caso, ma è una cosa importante. Bologna in 10.000, Pedardi e uova contro la polizia, fanno bene. No, non è vero, io mi dissocio da questa cosa che fanno, perché sono cose brutte. Anche a Napoli, anche qui riportano, a Napoli riportano che saranno bloccati i binari, quindi stop ai treni. Cerca proprio le botte. La Firenze Pisa Livorno bloccata verso il mare, quindi non andate al mare, raga, oggi, che tanto è lunedì oggi, quindi perché approfittavano poi sciopero, cioè, sai che ci vado al mare. Venezia, oh, finalmente Venezia, ragazzi, Venezia saranno tutti quelli che si riguardano con la puzza sotto il naso, che schifo, perché questo che fanno a Venezia. A Marghera più di 20.000 in piazza, manifestazione al cancello del porto. Sì, porto di Marghera, giustamente. Hai ragione, scusate. A Milano cancellati i treni di ritardi oltre 2 ore. Vabbè, ma d'altronde, ragazzi, oggi non dovete prendere il treno. Che cazzo, cioè, è giusto. Cioè, cioè, se tu oggi prendi il treno con tutto quello che sai già che ci sta, ma sei un cretino. Cioè, non è che alla fine, se vai a lavorare tu arrivando un'ora prima del momento in cui devi uscire dall'ufficio, hai dimostrato qualcosa al mondo, brutto cretino che non sei altro. Vabbè, poi c'è sta cosa di Genova, ovviamente, del porto, i portuali, che, ragazzi, sono un po' sono gli eroi di questo momento storico. E niente, vabbè, comunque non ci sono aggiornamenti in questo momento, che potrebbe essere anche un drammatico, perché insomma sapete che quando non ci sono aggiornamenti vuol dire che sta succedendo qualcosa. 12.53, allora, nelle scuole la partecipazione è il 3,70%, vabbè, già ce l'abbiamo detto. Vabbè, in questo momento non ci sono proprio aggiornamenti. L'unica cosa è che noi sentivamo praticamente dall'intervento di Michele sentivano le ambulanze, le cose, le sirene, quindi insomma qualcosa starà sicuramente a succedere, perché ce lo diceva Mister Zero, ma per ora non è riportato da nessun organo ufficiale. Vabbè, niente, scusate, stavo continuando a leggere, leggo cose, ma non ci sono veramente particolari agli organi. Siamo in 100.000, già ce l'avete detto, ma si ruotano le cose, cioè non c'hanno altri, vabbè, non so che dire, ragazzi, in questo momento, senza contributi, senza che nessuno partecipa, perché sicuramente è stata a magnà, e lo capisco, cioè, nel senso, io pure me sarei messo a magnà. Metto l'ultima canzone, vedo come siamo messi, se c'è qualche novità e via dicendo, poi diciamo che ci possiamo anche allegramont salutar. Che stanno a fare tanti, ripartivano, rimollavano. E non ci sono altre novità. Si parla di caos a Roma, binari bloccati, insomma, bel casino. Sto vedendo che c'è un bel casino pure dal punto di vista del mantempo in Lombardia, esondazioni, frane, insomma, vabbè, mi dispiace chiaramente di tutto questo, però dai ragazzi, io direi che ci abbiamo provato a fare una cosa carina, ma come è venuta parzialmente, pensavo veramente che loro fossero. Secondo me ancora non sono arrivata la manifestazione, lo dico, cioè vedo questa notizia, insomma, mentre comunque aspettiamo notizie anche per sapere della loro incolumità, io direi che ci possiamo tranquillamente salutare. E niente ragazzi, questo è quanto, io ci ho provato, sono stato qua, ho cercato di farvi compagnia, spero di avervi fatto compagnia e di aver comunque anche portato un po' di positività, ottimismo in un periodo così particolare, così difficile dal punto di vista anche storico e politico, dove vedere eventi come questi a una persona magari grande come me in qualche maniera riaccende un po' il cuoricino insomma quel cuoricino piccolino, romanticino, che vede insomma nella possibilità di questi giovani di costruire una società migliore, sicuramente migliore di quella che stanno lasciando questi, che dopo 80 anni sono voluti ritornare, perché ricordatevi sempre che in Italia non c'è mai stato un processo di condanna del fascismo, non c'è stata mai la volontà da parte degli italiani di pensare che il fascismo fosse una cosa brutta, perché gli italiani ignorano o preferiscono ignorare quello che è stato un periodo storico, cosa significa stare senza libertà, perché pensano che un politico che urla e ordina è più figo perché finalmente c'è qualcuno che comanda. In realtà non sanno di che cosa stanno parlando e le conseguenze che ci potrebbero essere per loro, per i loro figli e le generazioni che potrebbero venire dopo di loro. Noi ovviamente mandiamo un pensiero a Gaza, ma mandiamo anche un pensiero a tutte le altre guerre in questo momento giustificabili, no, sempre ingiustificabili, le guerre sono sempre ingiuste, più che altro legittime, legali, ecco, diciamo, o non legali, dove ovviamente vengono fatte non solo azioni di guerra, che la guerra per quanto schifosa possa essere ha comunque un codice, ma dove ovviamente c'è gente che sta morendo, ci sono in corso stermini, genocidi, non soltanto a Gaza ma anche in tutto il resto del mondo. Per gli amici di Gaza io spero che loro possano resistere e spero che insomma qualcuno intorno a loro, compresi i paesi arabi che in questo momento stanno facendo esattamente quello che stanno facendo i paesi occidentali, insomma, li sostengano e li aiutino a costruire uno stato palestinese che c'era prima di Israele e che è giusto che ci sia anche ora che c'è Israele. Ciao a tutti, buon pranzo, buon pomeriggio e buon giorno dello sciopero generale e Free Palestine. Tempo di scoprire nuove idee con Simone Pizzi, il grande reset, un dialogo sincero per costruire insieme un futuro più vero. Unirsi per il cambiamento, lottare per un mondo migliore, ascoltarsi e confrontarsi con mente aperta e cuore. Runtime Radio, la voce del progresso, Simone Pizzi ti aspetta per un nuovo inizio. Unirsi per il cambiamento.